quindi scendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ehi! Ehi! Ora sei nuovo e devi cooperare, mettiti in fila senza protestare. E se fai il bravo ti faremo avere un posto fisso e la promozione. E poi ricordati che devi conservare l'integrità del nucleo familiare. Firma il contratto, non farti pregare, se vuoi far parte delle persone serie. Hey! In fila per tre o anche in ordine sparso, la scuola era iniziata ieri in quasi tutte le regioni italiane, in alcune era già cominciata precedentemente. E oggi riprende a trasmettere l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. 06 49 17 50 è il telefono di questa radio a cui potete contattarci per andare in diretta durante la trasmissione. E People Have the Power, come dire, è assolutamente indicata in questo contesto in cui ieri si è aperta anche la grande consultazione governativa, in cui ciascuno e ciascuna di noi, nessuno escluso, può dire la sua sulla scuola, perché insomma da quando c'è Renzi al governo la democrazia è partecipativa e dal basso, evidentemente. Siete capitati su queste frequenze per caso, il tono era sarcastico e le frequenze sono l'87.9 della Onda Rossa. Terzo anno in onda, l'ora di buco, 72esima puntata, mi dicono. Quest'anno abbiamo cominciato anche presto perché Renzi ci ha, come dire, tirato giù dal letto con questa storia della buona scuola. Se pensavate di avere visto già tutto, non avete visto ancora niente. Sul sito del Ministero dell'istruzione, apro parentesi, chiamato da una giornalista un paio di sere fa al telegiornale, ministro della scuola. Questi sono i nostri giornalisti. Questo è un altro capitolo che apriremo su il saccheggio della lingua italiana, ma comunque anche perché insomma è ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, se vogliamo essere precisi. Comunque sul sito trovate questo documento, La buona scuola, che comunque è stato ripreso da molti giornali, da molti altri siti, anche quelli ovviamente specializzati, quelli sindacali e così via. È un documento di 136 pagine, quindi un bel, sì, più o meno un bel malloppone, e noi ce lo stiamo leggendo, come speriamo che faccia anche chi in qualsiasi modo è coinvolto nella scuola. Come abbiamo sempre detto, questa è una trasmissione ovviamente che non riguarda soltanto, anche se siamo e quindi lo diciamo, lavoratrici e lavoratori della scuola che parlano di scuola, sappiamo bene che la scuola non riguarda soltanto chi ci lavora, come potrebbe essere per esempio la sanità, anzi riguarda forse per molti aspetti ancora di più l'utenza di questa scuola, quindi studenti, studentesse, bambini e bambine e i loro genitori. Quindi insomma è importante, come potremmo dire, sapere di che morte, speriamo non sia così, andremo a morire. E dicevo che è un documento molto molto corposo, con un linguaggio che è un po' diverso da quello che è stato usato finora per diciamo situazioni analoghe, anche se fino adesso abbiamo soprattutto visto e trattato leggi e progetti di leggi. E, è diviso in vari capitoli. All'inizio ci sono i famosi 12 punti, per esempio affermazioni abbastanza importanti: mai più precari nella scuola, ve li leggo così saltando, basta supplenze, cultura in corpore sano, e la scuola per tutti, tutti per la scuola, e via insomma discorrendo. Noi l'abbiamo letto, ma sicuramente è, intanto, per quanto spieghi molto, insomma fa lo sforzo di spiegare anche a chi non conosce i meccanismi ormai molto farraginosi del funzionamento della scuola, soprattutto per quanto attiene a chi ci lavora, al reclutamento cosiddetto di chi ci lavora, ma è proprio complicato, perché in effetti è pieno di cose più o meno nuove, presentate come tali, ma in realtà che vengono da lontano e che quindi vanno insomma esaminate con molta attenzione. Per dirne una, per spiegare perché Renzi ha promesso 150.000 assunzioni nella scuola dal prossimo anno, tutte insieme, per quello che ho capito io, e che sinceramente su questo ci lascia molto perplessi e perplesse, perché non riusciamo proprio a immaginare dove possa sistemare queste persone, visto che ormai il trend è quello dell'aumento degli alunni e delle alunne per classe e la riduzione invece, o comunque del personale docente. Ma al di là di questo, rispetto a questo, per esempio, è necessario, il documento lo fa, spiegare appunto come funziona questo. Io non so se vogliamo affrontare un pochino già questo aspetto, che sicuramente è quello di più bieca propaganda, perché è indubbio che chi sente, non è una novità, perché chi sente appunto parlare di 150.000 assunzioni, insomma, specialmente se si trova tra i papabili, quindi è un precario, una precaria, ovviamente ci spera, ma in realtà per esempio già dal 2007 la finanziaria col governo Prodi aveva previsto di assumere con un piano triennale 150.000 docenti tra il 2007 e il 2009, e poi non se n'è fatto più niente. E questo è uno strano passaggio, perché non si parte dal concetto che mancano 150.000 unità di insegnanti dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria superiore, ma che bisogna stabilizzare questi precari e queste precarie, perché insomma ormai ci sono persone veramente che vanno in pensione già ancora precarie, quindi con questo stipendio fermo da 20-25 anni, e, oppure insomma, comunque persone che sono altre, da altre più giovani magari, ma da altrettanti anni in una situazione di precarietà. Su questo per esempio il documento è costretto ad ammettere che c'è un'infrazione già da diverso tempo e alcune cause sono state vinte davanti alla Corte Europea e non solo, rispetto al fatto che dopo un certo numero di contratti che si reiterano nel tempo, contratti a tempo determinato, è d'obbligo appunto procedere, di fatto si configura il contratto a tempo indeterminato e quindi la persona va stabilizzata. Non so se volete aggiungere, se no proseguo. Sì, quello che volevo dire, insomma, sottolineare su questo è che appunto molti e molte leggono questo annuncio di Renzi così altisonante delle 150.000 assunzioni come dire un giochetto, perché di fatto il governo sa che in applicazione della direttiva europea, di una direttiva europea relativa al tempo al lavoro al tempo determinato, l'Italia dovrà assumere queste persone, perché queste persone sono ben più di 3 anni che hanno contratti reiterati nella scuola. E quindi la lettura che molti e molte danno di questo annuncio è che le assunzioni sarebbero state fatte comunque, in questo modo vengano usate per coprire insomma altre scelte assai poco diciamo popolari che vengono presentate in questo documento. Detto questo, poi vedremo, io ovviamente mi auguro che vengano assunte ben più di 150.000 persone, ma io non ci credo. Non perché si debba credere così in astratta dell'entità, ma semplicemente perché si spara molto grossa a dire che in un anno si assumono tutte queste persone, si mettono al lavoro dal 1° settembre 2015, anche se ci fossero i fondi e la volontà di farlo, lo vedrei comunque complicato come meccanismo. E comunque insomma molto presto ci sarà la finanziaria, vedremo se in finanziaria ci sono i fondi per queste assunzioni. Sì, in realtà servono 3 miliardi per sistemare 148.000 insegnanti, e se tra un mese diranno che nella finanziaria che questi 3 miliardi li hanno trovati, allora possiamo cominciare a credere, a sperare che tecnicamente si può risolvere anche questa immissione di massa al 1° settembre del prossimo anno. Altrimenti, come abbiamo detto, è tutto fumo il fatto che non serva una legge per stabilire 150.000 assunzioni. Non serve una legge, perché nel 2007 questa legge già c'è soltanto la necessità di applicare questa norma, se i posti, se veramente servono questi posti. Secondo, è evidente che viene inserita questa rivoluzione, così Renzi si esprime, all'interno di una grossa riforma per quanto riguarda principalmente i docenti, e i tempi vengono un pochino diluiti, quindi non tornano i tempi, perché se per 2 mesi c'è tempo per discutere pubblicamente o su internet o anche nelle assemblee dentro le scuole di questa cosa, evidentemente non si vuol decidere entro la presentazione della finanziaria lo stanziamento, la necessità di 150.000 posti per i docenti, e quindi lo stanziamento dei 3 miliardi di cui parla il governo. Quindi c'è dietro una grossa contraddizione, e però diciamo spararla subito grossa su questa fine del supplente, no? La chiamata la supplentite Renzi, di fatto apre le porte per tutto quello che c'è dietro nelle altre 130 pagine del documento. No, scusate, ma ti avevo tolto la voce, prego. Allora, ci sono delle incongruenze, tra l'altro qui è bianco sul grigio, noi ce le siamo diligentemente stampati e pagati, però insomma, è difficile leggere. Allora, Renzi dice che ci sono 600.000, o chi per lui ha stilato questa cosa certamente non è stato lui, forse sarà stata la moglie che è nota precaria della scuola, 600.000 cattedre in tutto in Italia, dall'infanzia fino al secondo grado, però non sono sufficienti e lo Stato deve ricorrere a circa 14.000 contratti, e gli altri 136, tu sei professore di matematica, quanto fa 150.000? 14.000 già non torna. E poi fa la solita confusione, cioè parla anche di ispezioni orario. Ispezioni orario non sono cattedre, sono delle ore che sono residue, che se non si riesce ad accorparle con altre cattedre, quindi il disgraziato che a cui le accollano saltella da una scuola all'altra, e sono ore che possono anche essere date in vario modo, diciamo per esempio a docenti privi di cattedra solo per quell'anno, a supplenti annuali, quindi qui ancora. E poi lui parla del fatto che ci sarebbero dei rimaneggiamenti del cosiddetto organico di fatto a inizio d'anno, ma sono, a me non risultano tutti questi rimaneggiamenti in aumento rispetto alle iscrizioni, che come sappiamo sono anni che vengono fatte a gennaio, proprio per agevolare, non più a giugno, per agevolare poi insomma la predisposizione, in modo che tutto più o meno funzioni all'inizio della scuola. E poi alla fine ci mette i docenti, e qui fa un'altra confusione, quelli che per a vario titolo appunto non lavorano, perché mette insieme maternità, malattie e distacchi. Sono tre diciamo motivazioni estremamente diverse. La maternità si sostituisce con le supplenze brevi, e ci mancherebbe. Il distacco, come sappiamo, può essere sindacale, può essere un ente, eccetera. Le malattie, nemmeno a dirlo, pure questo. Quindi non si capisce a che titolo faccia tutto questo miscuglio. E quindi insomma, e secondo me, siccome sembra che chi l'ha scritto sia qualcuno o qualcuna che per come tratta l'argomento un pochino ci capisca, viene il sospetto appunto che sia pure questo appunto abbastanza voluto. Tanto le persone, diciamo, ma credo nemmeno i docenti ci abbiano chiaro, e manco tutto il personale amministrativo, se non ci ha sbattuto la faccia per anni, ci abbia ben chiaro come funziona il sistema di reclutamento oggi. Stiamo parlando appunto del piano straordinario delle assunzioni previsto per settembre 2015, e peraltro viene anche detto che subito dopo verrebbe bandito un concorso per altre 40.000 assunzioni, quindi in due anni sarebbero 190.000 assunzioni. Facciamo una brevissima pausa per darvi il tempo di chiamare se volete partecipare a questa discussione, e poi continuiamo. c'è da aggiungere a quello che ho detto prima, che poi tutti questi surplus di docenti, perché evidentemente abbiamo capito che i posti sono quelli che sono, e quindi 150.000 sembrano essere veramente tanti, dovrebbero concorrere poi all'organico funzionale, sul quale torneremo più diffusamente appunto commentando altre parti del documento. Comunque, grosso modo, pure questa non è una novità, perché è previsto addirittura dal 96, mi pare. C'è una pletora di insegnanti che non hanno in realtà una cattedra, ma che fanno varie attività, per esempio dalle supplenze o altre attività più o meno definite. Sì, per tornare ai numeri, volevo ricordare quanti sono stati i docenti neoimmessi negli ultimi due anni, per capire questo 148.000-150.000 docenti che saranno immessi in 12 mesi, quanto sia realistico. Allora, l'anno scorso sono stati immessi 11.000... Andiamo avanti tra un attimo, perché abbiamo una telefonata, direi la mandiamo in onda. Pronto? Pronto? Sì, ciao a tutti, io sono un docente abbastanza giovane che insegna da un po' di anni nelle scuole private, e sinceramente, diciamo, con tutta la diffidenza possibile, tutto sommato sono abbastanza d'accordo col piano che il governo sta attuando, e sinceramente anche sui numeri mi sembra che le cose tornino, dal momento che ogni anno il Ministero dà 100-110.000 contratti fino al 30 giugno, fino al 31 agosto, quindi se sommiamo poi i pensionamenti ci sta tutta che in un paio d'anni riescano ad assorbire 150.000 unità a tempo indeterminato. Sì, in realtà, guarda, quello che penso io è questo. Stavo dicendo che l'anno scorso sono stati immessi 11.000 docenti, adesso quest'anno i neoimmessi sono 28.000 circa, e le notizie sono anche recenti, nel senso che il governo Renzi ha spacciato come decisione dell'altro ieri l'immissione di questi docenti, in realtà questa era già nota, e sono circa 15.000 docenti su posto normale e 13.000 e passa docenti di sostegno, totale 28.000. Ora, questi vanno a occupare dei posti liberi effettivamente, ma non sono tutti i posti liberi, perché ne avanzano altrettanti, perché come stanno facendo da anni, stanno immettendo il ruolo non su tutti i posti disponibili, che è quello che è l'infrazione di cui poi il governo, l'Italia sarà sanzionata in Europa, perché sta usando il precariato quando ci sono i posti liberi, ma soltanto circa la metà, diciamo siamo al 57-58%. La prima osservazione è: se tu veramente vuoi risolvere il problema dei supplenti, assumi tutti i posti liberi. Quest'anno, oggi, potevi assumere 26.000 docenti su posti normali, ne hai assunti 13.000, dunque non vuoi risolvere il problema dei precari. Sui 150.000 io sono sicuro che il posto di queste ci saranno, peraltro ce ne possono essere anche più di 40.000 nei prossimi tre anni per questo eventuale concorso che sarebbe bandito il prossimo anno, perché i pensionamenti nel prossimo triennio saranno forse anche molti più di 40.000. L'idea è che questi docenti comunque saranno assunti su non più posti normali, ma a fare i tappabuchi sostanzialmente, perché l'organico funzionale, questo abbiamo letto, l'idea è questa: un docente è a disposizione dei presidi di alcune scuole, di un polo di scuole, e sarà chiamato per fare o supplenze brevi o altre mansioni. Cioè, sta dicendo che alcuni tempi indeterminati che ci saranno con questo tipo di mansione? Assolutamente sì. Sarà la maggioranza, e questo c'è scritto, sarà la maggior parte di questi, anche perché, come diceva prima la compagna, gli spezzoni ci sono anche, però non sono tutti compatti, e dunque ci sarà, avanzeranno delle ore, e saranno in queste ore i docenti saranno sfruttati per qualcosa che è un pochino fuori dal ruolo del docente, che ha una classe magari di 30 alunni, però sulla quale può fare un discorso di come dire, può insegnare, certo, semplicemente. Sì, però diciamo anche adesso con i contratti annuali viene fatto questo, sono 6 ore di qua, 3 di là e 9 da un'altra scuola, quindi di fatto è una cosa che succede però in modo precario, se non altro se viene stabilizzata è comunque un passo avanti, con tutti poi magari le critiche e gli aggiustamenti che uno può fare in corso. Guarda, se tu vai a pagina 13 del documento, e noi l'abbiamo citato proprio poco fa, vedi che si parla di 14.000 contratti annuali, cioè di supplenze annuali, cioè a 12 mesi, dal 1 settembre al 31 agosto. Significa che sono i posti liberi di cui parlava il compagno. E che perché danno 14.000 supplenze annuali su posti effettivamente liberi? Non confondiamo, noi ci siamo sgolati, sono anni che ci sgoliamo su questa cosa. I posti che vengono, io non so adesso se la cifra sia 110.000 come dicevi tu, ma la stragrande maggioranza di queste supplenze annuali sono fino al 30 giugno, perché è un posto, come si dice nel gergo scolastico, di organico di fatto, cioè non è una disponibilità per i più svariati motivi, pezzetti raggruppati, pezzetti lasciati anche da soli, perché c'è gente che viene nominata su spezzoni di 6-7 ore, e meno male che il punteggio da diversi anni viene riconosciuto comunque per intero, il punteggio di servizio, o persone che stanno insegnando all'estero, e quindi questi posti non sono disponibili per un'immissione in ruolo, e sono la stragrande maggioranza, e nel corso degli anni sono molto diminuite le supplenze fino al 31 agosto, cioè quelle effettivamente annuali, capisci? Quindi bisogna stare attenti, e questo lo vedo che anche negli anni scorsi molti e molte docenti non ce l'hanno chiaro questo, cioè andare a mettere una persona su un posto che non è disponibile perché in realtà è di titolarità di qualcun altro non ha senso. Questo viene fatto a volte nelle missioni in ruolo con la sede provvisoria, ma la persona ha l'obbligo, perché quell'anno magari è libero in quel momento effettivamente quella cattedra, ma non giuridicamente, ha l'obbligo di fare la domanda di trasferimento e trovarsi un'altra sede. Però guarda, il dato dei 110.000 è quello che io ho preso l'anno scorso quando il MIUR ha fatto, diciamo, i conti dei contratti che aveva fatto verso ottobre-novembre per l'anno scolastico 13-14, quindi non penso che tutti e 110.000 siano situazioni di questo tipo. E lo dice Renzi, 14.000 sono quelli annuali a 12 mesi, lo dice a pagina 13, non è che lo dico io. Ma non è che se lo fanno fino al 30 giugno è perché a me me l'hanno fatto un sacco di volte al 30 giugno. Ma perché... dove, la scuola privata o la scuola pubblica? No, la scuola pubblica, perché erano delle ore che praticamente facevano parte dell'orario curricolare della scuola con la riforma Gelmini dei nuovi piani didattici, però non c'era nessuno disponibile che... Ma quello non è la cattedra di titolarità, è una cattedra a 18 ore, ormai sono tutti a 18 ore mi pare, tranne qualche residuo, quindi uno spezzone di 6 ore che deriva appunto dalla carneficina che ha fatto la Gelmini rispetto a certi programmi, non è una titolarità, non è possibile. Andrebbe abbinata magari ad altre ore in un'altra scuola. Ma quale? Non sarebbe una titolarità, te la dà soltanto in questo caso una cattedra, si chiama esterna, dove tu c'hai 8 ore, la maggior parte delle ore, diciamo 10 in una scuola, e sei titolare lì, ma hai perso 8 ore, le vai a completare, ma mantieni la titolarità nella scuola dove hai più ore, fino a che le perdi tutte e te ne vai in sovrannumero. Mi sono spiegata? Sì, ok, va bene. E comunque, insomma, questo ruolo di che noi abbiamo definito i tappabuchi, e che ovviamente il documento di Renzi non chiama così, ma lo descrive, cioè c'è proprio nel documento, cioè si parla di docenti che vengono impiegati da una scuola, o meglio da una rete di scuole, e utilizzate, si fa anche un elenco di mansioni, e utilizzate per i corsi di recupero, per sostituire docenti assenti, per cose di questo genere, insomma sono 3-4 cose elencate. Quindi è proprio previsto che di una gran parte di questa assunzione vada a costituire una sorta di pletora di docenti di serie B, e di serie B non perché non siano meno preparati, ma perché di fatto vengano a fare i tappabuchi. Però se questo lavoro, che poi magari forse organizzato meglio, non risulti più una sorta di tappabuchi, ma una sorta di appunto mansione che può essere tranquillamente, diciamo, inserita in un'attività scolastica senza essere tacciata di serie B o quant'altro. Comunque in questo modo, se si evitano tutte quelle supplenze di persone non abilitate che illudono magari poi le stesse persone non abilitate a poter entrare. Ma tu le conosci queste persone? Perché per la mia esperienza lavoro nella scuola da 15 anni, negli ultimi 5 anni di non abilitati nella scuola non ci mette più piede nessuno. Ma guarda, ti dico solo che con l'infornata dei pass ha messo dentro tutta questa. Ma si sono abilitati? si sono sì, ma però erano tutte persone che non erano abilitate e che grazie a queste supplentucce Però scusami se mi permetto, perché le loro sono supplentucce e le tue sono supplenze? Cerchiamo anche di avere un minimo di... Anche le mie, diciamo, supplenzucce nel senso di dire, non era per sminuire, proprio a livello concreto, perché sono 3 settimane, 1 mese, 2 mesi, 6 ore, quindi... È stata data la possibilità a chi ha fatto questo tipo di abilitarsi, no? Con il pass, questo è successo. E quindi il pass in qualche modo ha sanato questa cosa, però per evitare che si crei un altro esercito di persone che ambiscono, perché hanno lavorato part time o così occasionalmente, ad entrare quando poi non ci sarà posto, tanto vale che questi buchi vengano tappati magari da un organico strutturato. Non lo so, io ragiono un po' così, nel senso che cerco di vedere un pochino quale potrebbe essere una soluzione anche in prospettiva, oltre che nella situazione attuale, per evitare che tanta gente magari possa illudersi che anche per me è andata così. Per fortuna poi sono riuscito ad abilitarmi e penso che con i concorsi in qualche modo rientrerò, però ci saranno tante altre persone che, se continuano magari a lavorare, a lavoricchiare senza abilitazione, se poi non ci sarà un'altra forma di abilitazioni, che si fa di tutte queste persone? Giustamente reclameranno anche loro, quindi se si può evitare una situazione di questo tipo, in questo potrebbe essere positivo l'utilizzo dei docenti in più mansioni, sempre riguardo comunque alla didattica, non dico a pulire le biblioteche o a fare l'archivio dell'inventario, insomma, questo intendo. Comunque vi ringrazio. Noi ringraziamo te per averci chiamato. Buon lavoro, ci sentiamo, ciao. Sì, riprendiamo l'ora di buco e continuiamo sulla questione dell'assunzione dei docenti. Vorremmo ribadire questa cosa: noi non siamo contro l'assunzione assolutamente di 150.000 persone, perché questa assunzione, anzi, noi crediamo che sia, possiamo usare questo termine, sacrosanta anche in questa radio, è sacrosanta per moltissimi motivi. Uno, diciamone un paio. Uno è che sono stati sfruttati dallo Stato per fare i tappabuchi, e dunque se adesso vengono assunti a tempo indeterminato per continuare a fare i tappabuchi, è chiaro che sono comunque soddisfatte queste persone. Quindi la telefonata del nostro ascoltatore è comprensibilissima. Il problema è che questo è uno sfruttamento del lavoro, lo vogliamo dire. E quindi viene nuovamente ventilata a noi italiani, in questo caso, come dire, con il discorso alla nazione, come una clamorosa decisione. In realtà è soltanto un atto dovuto, prima cosa. Meglio fare quello di ruolo che gironzola per la scuola, la sta sterilizzando, che certo. Quello che nella graduatoria di esaurimento non sa se l'anno prossimo lo chiameranno o meno, e c'è stata una forte riduzione, ve lo ricordate, il salva precari, perché c'era stato un taglio enorme nelle nomine, che più o meno erano parecchie ogni anno, sulle cattedre scoperte a vario titolo. E un sacco di gente che lavorava da diversi anni, quindi diciamo non era assolutamente stabilizzata, ma insomma ogni anno aveva più o meno la tranquillità di avere la nomina annuale, si è trovata a spasso. E non mi ricordo, fu proprio la Gelmini, mi pare, però non so sicura, qua è un avvicendamento convulso, che fece questo provvedimento salva precari, ovvero se tu avevi avuto una nomina annuale, sì, fu la Gelmini. Ti garantivano praticamente una graduatoria parallela dalla quale si era obbligati a chiamare prima, quindi un casino che non finisce più, vi potete immaginare. No, una notazione rispetto a quello che si diceva prima, cioè il fatto che questa questione dell'organico di rete, o come la si vuole chiamare, sia uno sfruttamento del lavoro. Sì, è uno sfruttamento del lavoro che già avviene, ma che in questo caso, sotto le mentite spoglie di una rivoluzione, tra virgolette, viene istituzionalizzato, stabilizzato, reso definito e definitivo. E in realtà la restituzione alla scuola di tutto quello che è stato tolto alla scuola dal alle precedenti riforme, visto che Renzi dice che questa non è una riforma, non è contenuta in questo documento in nessun modo. Non si fa cenno al numero degli alunni per classe, non si fa cenno al taglio delle materie che ci sono state, se non per quelle quei tre scampoli di educazione fisica, storia dell'arte e musica. E quindi diciamo rappresenta questa cosa l'istituzionalizzazione di una forma di precariato a tappabuchi. C'è da chiedersi se è questo che noi vogliamo. Certamente noi vogliamo l'assunzione dei 150.000 e di tutte quelle persone che sono state sfruttate. In che forme? Questa assunzione, dal mio punto di vista, deve passare per la restituzione alla scuola di quello che le è stato tolto. Ma io credo che appunto il documento La buona scuola sono 136 pagine e quello dell'assunzione è il primo capitolo, e che ci siano o non ci siano queste assunzioni comunque vengano usate per coprire il resto, e questo credo che sia il dato più grosso. Poi ne parleremo insomma di questo resto, non tanto oggi che sono le 16:40, ma magari insomma martedì prossimo o quando sarà. E una delle cose che noi dobbiamo ricordare appunto è che la Gelmini ha tolto 8 miliardi l'anno a un bilancio statale sulla scuola che era di 40, quindi ha tolto sostanzialmente un quinto di quanto veniva speso per la scuola. Quasi un altro miliardo l'ha tolto Monti. Quindi ora la scuola ha poco meno di 32 miliardi l'anno a fronte di 40 che ne aveva prima. E vogliamo anche ricordare che c'è stato un taglio molto forte di posti di lavoro nella scuola, è stato calcolato circa 85.000 docenti e 40.000 ATA, se ricordo bene i numeri, con la riforma Gelmini. È stato tolto nella maniera più semplice, cioè sono state tagliate ore di scuola, e tagliando ore di scuola c'è stato bisogno di meno insegnanti, ovviamente. La conferma di questo è l'ultima commento dell'Ocse di quest'anno sullo stato dell'istruzione in Italia, che è molto, come dire, ottimista, perché registra appunto questi tre parametri in crescita secondo loro, che è più alunni per docente, quindi diciamo e questo è il numero di studenti per classe che noi abbiamo e che continua a essere diciamo per almeno per le superiori intorno ai 30, meno soldi per i professori e meno costo per studente. Quindi su questi tre parametri l'Ocse fa i complimenti all'Italia per aver, come dire, raggiunto delle medie accettabili. Quindi questo è un dato oggettivo detto dall'Ocse. Look inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Well, that's not how you find it. Do you really enjoy living a life that's so hateful? 'Cause there's a hole where your soul should be. You're losing control of it, and it's really distasteful. Please. You think we need to go to war? Well, you're already in one. 'Cause it's people like you that need to get slew. No one wants your opinion. Riprendiamo il discorso sulle assunzioni, sottolineando che a pagina 34 possiamo andare a leggere, c'è una tabella che elenca il numero di nuove assunzioni suddivise per posti, per tipologia di posti, e accanto c'è anche il costo. Questo serve per farci capire come di fatto diverse migliaia di posti sono disponibili sostanzialmente o su cattedre intere o su spezzoni consistenti che fino adesso vengono dati per appunto fino a giugno per 10 mesi, pagati per 10 mesi. 84.000 posti sui 148.000, quindi 84.000 posti sempre secondo i calcoli degli estensori di questo documento, quindi un po' più della metà sono i posti che sostanzialmente non sono disponibili, che quindi andranno a formare quello che poi dopo sarà presentato, viene presentato nei capitoli successivi, ovvero l'organico di rete, quei docenti che non hanno una cattedra attualmente con i parametri richiesti, ma che andranno a costituire quel gruppo di docenti, quella squadra che i dirigenti potranno chiamare e il cui lavoro potranno sfruttare per poter poi dopo dare loro incarichi o funzionali oppure coprire dei buchi qua e là. Quindi parliamo di 84.000 docenti assunti al primo settembre del prossimo anno, che non avranno una cattedra ma formeranno, ma andranno alla squadra, diciamo, di rete. Dopodiché, se vogliamo, possiamo anche andare a contestare il fatto che venga stabilito due pagine dopo che questa riforma è la più grande riforma degli ultimi 20 anni, nel senso che vengono fatti degli stanziamenti come mai fatti. Questo in realtà è piuttosto falso, perché queste 150.000 assunzioni vengono praticamente pagate non con soldi nuovi, cioè non è previsto un grosso stanziamento da parte del governo, perché i 3 miliardi o i 4 miliardi del costo tra 10 anni di queste nuove assunzioni di fatto possono essere ricavati dai risparmi che si faranno su tutti quelle spese che oggi le scuole, lo Stato sostiene per ciascuna scuola che vanno a costituire, se vogliamo, il fondo di istituto per le attività extra dei docenti, che non ci sarà più sostanzialmente e che nel documento vengono stimate come almeno 300-350 milioni ogni anno, e si dice anche che può essere mezzo miliardo. Dunque, per i prossimi 10 anni il costo sarà di 4 miliardi per questi nuovi assunti, ma questi risparmi e questi soldi saranno presi dalle tasche dei docenti, perché non ci sarà più, si azzereranno praticamente tutti quegli extra che facevano i docenti di ruolo, se vogliamo, ma anche i supplenti, e che erano pagati con il fondo d'istituto, che di fatto sarà azzerato dall'anno prossimo. Quindi è un'operazione che, a mio avviso, taglia, addirittura non investe, ma taglia ulteriori finanziamenti alla scuola pubblica. Usando la carta insomma demagogica, o comunque che può suscitare approvazione così, dell'assunzione perché sostanzialmente di fatto si dice continuamente questo per cercare di far passare questo documento, che è la più grande campagna d'assunzioni che sia mai stata prevista. Poi abbiamo visto, non è vero, in realtà era già previsto dal 2007, in effetti Fioroni era l'allora ministro dell'istruzione, Fioroni disse che sarebbero state svuotate le graduatorie con una serie di assunzioni a ruolo molto corpose, e cominciarono anche quelle assunzioni, ma poi cascò il governo. Non solo, ma gli altri risparmi sono anche dal blocco degli scatti, perché ovviamente leggendo dopo si viene subito a sapere che questo patto tra italiani e scuola di fatto deve prevedere assolutamente una diversa modalità per pagare i docenti, e quindi una diversa modalità per gli scatti, di cui poi parleremo nelle prossime puntate. Ma dal prossimo anno, se per ottenere questi 150.000, il ricatto è: allora cambiamo la modalità degli scatti, e dunque per altri 3 anni, oltre questi 6 di blocco di contratto da cui veniamo, ci saranno altri 3 anni in cui non ci saranno scatti. Quindi vengono conteggiati questi risparmi, e si fa vedere, per chi magari contestasse da destra, diciamo, questo documento, per dire no, troppe emissioni, troppo costo. Di fatto questo documento si cautela dicendo: guardate che i risparmi saranno ovunque, compreso il fatto che per 3 anni noi non pagheremo ulteriormente i docenti. Non so se vogliamo aggiungere qualcosa su questo. Cosa, siccome è arrivata anche una comunicazione fuori onda che ci, insomma, rimproverava di non essere chiari, stiamo facendo lo sforzo maggiore che si può, però ecco, telefonate come quella che è arrivata prima sono utilissime, per cui sono assolutamente benvenute, perché è una, ripeto, è una, un insieme di situazioni a monte, di normative a monte, che se non si capiscono poi risulta veramente di difficile comprensione lo stesso documento. Io ripeto, quando si mette sullo stesso piano, e poi lo specifica anche in quella tabella, la persona che viene assunta per 12 mesi e quindi su un posto effettivamente libero dal titolare, che può essere generato per un aumento delle classi o per un pensionamento, si mette sullo stesso piano di spezzoni che vengono accorpati o lasciati come tali, o di posti che non sono effettivamente liberi, o meglio di così, sinceramente non riesco a dirlo, cioè che derivano da comandi, da utilizzazioni in altre sedi e così via, e non assolutamente da maternità e da malattia, che sono coperte ovviamente da supplenze che sono finora coperte da supplenze brevi. Evidentemente poi si fa una grande confusione, ripeto, secondo me voluta. Il discorso, e qui concludo, è che poi lo affronteremo ovviamente nelle prossime puntate, questo organico funzionale o di rete in cui confluiranno un gran numero di questi 9 assunti servirà proprio poi a coprire fra l'altro questo tipo di supplenze di fatto. A questo, sulle assunzioni, si aggiunge anche tutta una, come dire, una retorica nel documento giocata sul non spiegarsi fino in fondo, a mio avviso, su chi sono quelli che entreranno nella scuola, perché sembra un po' che si fa di nuovo passare i precari e le precarie come della gente che è in queste graduatorie sostanzialmente per caso, perché poi gli abilitati sono quelli che dopo entreranno per concorso. Cioè, se si prende anche semplicemente la pagina, insomma la prima pagina che parla del reclutamento, subito si dice: in futuro i concorsi saranno riservati ai solo abilitati, come se nelle graduatorie ci fosse della gente che non è abilitata. Ma è questo, sappiamo che non è così, perché almeno nella fascia 1 e nella fascia 2 sono tutti abilitati. Nella fascia 3 credo di no, ma nessuno. No, non sono abilitati e infatti lavorano molto. Ma non lavorano sostanzialmente, pochissimi lavorano, forse c'è qualche materia, ma. Sì, per alcune classi di concorso nelle prime 2 fasce, almeno per quello che mi pare di aver capito, ci sono persone che hanno più di un'abilitazione, perché comunque ci sono persone che hanno ancora l'abilitazione del vecchio concorso e contemporaneamente hanno preso anche un'abilitazione per quelle che erano le scuole di specializzazione. Quindi ci sono persone pluriabilitate e questo l'abbiamo detto tante volte, con tantissimi anni di esperienza nella scuola, persone che hanno lavorato al pari dei colleghi di ruolo, rispetto ai quali l'unica differenza appunto è quella di avere un posto di ruolo oppure non averlo. E quindi appunto di questo se ne parla molto a lungo, dice che tutto questo serve per dare dignità, fiducia, prospettiva a chi ottiene l'abilitazione, perché ottenendo l'abilitazione poi si potrà entrare, ma ripeto, si tratta sempre di 150.000 persone l'anno prossimo, poi si dice 40.000 nel triennio successivo, e non c'è nessuno che è lì per caso, ecco, anzi si tratta di persone normalmente che stanno nella scuola ormai da tanto tanto tempo, però si gioca molto, ecco, su questo, anche su come è impaginato il documento, perché si ripetono alcune parole insomma chiave, tipo fiducia, di lato, nei box laterali, eccetera eccetera. Diciamo, è stata pagata una società di grafica per poter compilare questo, quindi diciamo soldi spesi bene, perché ci sono anche disegni pazzi e caratteri, andate a vederla poi magari tramite anche il nostro blog se volete, maiuscole, minuscole, corsivo, diverse font, quindi diciamo c'è dietro anche un'equipe grafica molto interessante, oltre agli estensori di cui parleremo anche nella prossima puntata, per capire chi ha pensato queste cose. Non so se ci puoi già dare qualche anticipazione, forse 2 o 3 minuti ce l'abbiamo, eh. No, però pensate a, che ne so, Confindustria, Agnelli, vi dice qualcosa? Compagnia delle Opere, San Paolo, ci sono questi, per Banca Centrale Europea, ci sono questi personaggi. Ma Agnelli Fondazione? Perché si occupano molto di scuola. Beh sì, anche tutto, diciamo, noi la chiamiamo lobby, sono una compagnia bella che pensa a noi, compagnia bella che ha degli stipendi che sono da 190.000 euro lordi l'anno per stare al Ministero della Pubblica Istruzione, chiamati non su concorso, non hanno superato alcun concorso, ma chiamata diretta per ovvio merito, e oppure per fare i vice di questi 75.000 euro all'anno, e questi ci dicono che i docenti devono guadagnare intorno diciamo ai 1.300. Fra l'altro, e con questo non apriamo la cosa, quando si parla degli stipendi nel documento si pubblicano delle cifre lorde e non si scrive che sono lorde. No, scusate, è peggio, lordo stato, ovvero non è lo stipendio lordo che i dipendenti ricevono, ma è il costo per lo stato di quel dipendente, e quindi questo ci fa capire una duplice cosa: uno, che c'è molto fumo dietro e quindi chi legge quei numeri dice ammazza quanto guadagnano questo; 2, è che loro considerano la scuola come un costo e non come lo stipendio che poi effettivamente entra nelle tasche degli insegnanti. Sì, la trovate a pagina 49 questa tabella, e lordo stato, come dice giustamente Fabrizio, è il costo per il datore di lavoro, quindi c'è in mezzo l'IRAP per esempio, che è la tassa sulla produttività, e c'è anche ovviamente tutta la parte previdenziale a carico del datore di lavoro, quindi si arriva a cifre del tipo di 53.000 euro l'anno per un docente all'ultimo gradino attuale della carriera di scuola secondaria, che non stanno né in cielo né in terra, insomma, uno legge, dice, ci picchia, è una vigliaccata proprio, sì. Cioè. Non si usa mai il lordo stato, se voi prendete le tabelle dei contratti, quelli dei bei tempi andati, c'è il lordo, che ovviamente non è quello che il dipendente percepisce, ma è molto lontano da queste cifre qua. Il lordo stato non viene mai indicato nei contratti, negli aumenti, viene indicato forse il lordo delle previdenziali a carico del dipendente e dell'IRPEF. Credo che sia forse sotto un 25% in più, quindi dovete togliere intorno al 25%, e quello è il lordo da cui togliere i soliti oneri, e quindi poi dopo va a finire. Quindi lo stipendio degli insegnanti continua a essere sempre quello, ma le tabelle che vengono riportate sono tabelle molto gonfiate, molto colorate, come un po' tutto questo documento. Comunque siamo arrivati in fondo a questa prima puntata dell'anno scolastico 2014-2015 dell'Ora di Buco. Lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Sono le 16:59. Cosa? Vabbè, ma noi, come dire, ci proviamo, e anzi vi invitiamo a seguirci anche martedì i prossimi martedì, e soprattutto a intervenire in diretta quando e se volete. Vi ricordiamo anche che potete intervenire anche durante la settimana scrivendo a ora di buco @ondarossa.info, e che abbiamo anche un blog ondarossa.noblogs.org dove potete ascoltare questa trasmissione, leggere La Buona Scuola, il documento del governo Renzi, eccetera eccetera. Ma vi lasciamo con una notizia così allegra, direi. Sì, diciamo che forse molti si sono stupiti dell'inizio della scuola. Lunedì i ministri sono stati sguinzagliati in tutte le scuole del regno per aprire l'anno, e poi si sono scontrati anche con contestazioni, mancanza di banchi eccetera, scuole che crollano. Però la consultazione comunque è partita ieri, quindi i ministri hanno dato il là a questa consultazione, che a pagina 132, quindi verso la conclusione del documento, ci comunica che avverrà dal vivo, oltre che dal sito, avverrà dal vivo nei diversi territori italiani. Dunque forniranno, il governo fornirà agli studenti, sto leggendo, il kit La Buona Scuola, grazie al quale organizzare e strutturare il dibattito dentro le scuole. Quindi studenti, docenti, personale ATA, dirigenti, organizzate queste assemblee, aspettate il kit dalla scuola, dal governo, organizzate queste assemblee, e magari saranno dirette dai ministri che hanno aperto l'anno scolastico. E a sottolineare in chiusura tutte le cazzate che spara questo governo e il suo premier in primis, io vi ricordo che ieri doveva chiudersi la campagna per l'edilizia scolastica lanciata da Renzi a primavera, che aveva detto che tra il 15 giugno e il 15 settembre ci sarebbe stata una grande campagna per l'edilizia scolastica che avrebbe reso nuovamente belle le nostre scuole. Per quanto non so io, questa campagna non è mai iniziata, nessuno ne ha mai avuto notizia. I pennivendoli che scrivono sulla stampa di questo paese ovviamente si sono ben guardati da andare a dire che una delle tante promesse di Renzi, come le altre, è caduta nel niente. Se avete notizie diverse scrivetecele o ditecele in diretta martedì prossimo. Con questo è tutto e buona giornata. Ci vediamo martedì prossimo.